Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay e matrimonio. Questo posto non ha nulla a che vedere con il matrimonio tra gay. Tratta invece di una realtà minoritaria, ma non totalmente marginale nel mondo gay, costituita dai gay sposati. Il fenomeno col passare degli anni si è ridimensionato perché il matrimonio non è più un obbligo sociale stringente. Questa storia mi è stata riferita in versione molto più ampia di quella che riporto qui, direttamente dall'interessato Guido, che mi è stato presentato da un mio amico avvocato matrimonialista. Veniamo alla storia. Quando l'avvocato mi ha parlato di te, Project, e di quello che stavi facendo, non ci volevo credere. Poi ci ho pensato un po' e ho deciso di collaborare e di scrivere questa storia, perché qualcuno che sta per mettersi definitivamente nei pasticci eviti di farlo. Adesso ho 41 anni e appartengo alla poco nutrita schiera dei gay sposati, o per meglio dire dei gay divorziati. Nota la finezza, non dei gay i cui matrimoni sono stati dichiarati nulli, ma proprio dei gay divorziati. Perché mia moglie, io non la chiamo ex moglie perché è una persona come si deve e sono io che ho rovinato la vita a lei, non viceversa, lei quindi ha preferito così, cioè divorzio e non altro. Anche per la tutela di nostro figlio Giacomo, che ora non è più un bambino ma ha 19 anni, ma il problema di mio figlio è tutta un'altra questione e credetemi, essere un gay papà è una cosa che ti crea una marea di problemi, ma ti riempie anche la vita come nessun'altra cosa al mondo. Ma forse è meglio partire dall'inizio. Negli anni 80, gli anni della mia adolescenza, tra la gente che frequentavo, i gay non si nominavano mai, né in bene né in male. Io mi ero accorto molto presto che tra me e i miei amici c'era un modo diverso di vedere le ragazze. Ma io con le ragazze non stavo male. Sottolineo che io non sono propriamente bisessuale e che la fantasia di andare a letto con una ragazza non l'ho mai avuta. Però con le ragazze stavo bene e con loro passavo tantissimo tempo e forse anche per questo non sono mai stato identificato come gay dagli altri ragazzi. I ragazzi comunque mi piacevano e mi eccitavano e di questo fatto tra i 15 e i 16 anni avevo parlato con un prete della mia parrocchia. Vincere la ritrosia e fare un discorso del genere mi ha richiesto uno sforzo titanico, ma alla fine l'ho fatto e il prete è stato molto rassicurante. In pratica mi ha detto che non dovevo preoccuparmi, che la cosa era normale, diciamo così, e che col tempo sarebbe passata da sé. Francamente la risposta mi sembrava troppo semplicistica e per nulla in linea con quello che provavo realmente. Io non pensavo affatto che la cosa sarebbe cambiata e praticamente avevo la certezza del contrario. Il risultato di quel colloquio fu solo uno. Data l'enorme vergogna che avevo provato a fare al prete un discorso come quello, non andai più in chiesa. Don Filippo, così si chiamava il prete, non fece nulla per portarmici per forza e anche se io avevo paura che mi potesse mettere in difficoltà per quello che sapeva di me, sembrava essersi dimenticato del tutto della faccenda. Ma andiamo avanti coi fatti. Ho conosciuto Marina, mia moglie, quando avevo 19 anni. Un po' la fissa dell'essere gay l'avevo messa da parte perché i ragazzi mi piacevano sì, però riuscivo a controllarmi. Era una continua lotta con me stesso, ma alla fine non mi sentivo veramente dominato dall'idea di essere gay. Marina era una bella ragazza e poi era buona d'animo, una persona dolce che da te non pretende nulla, che è disposta a darti tutto. Non so se mi sono messo con lei per esorcizzare l'idea di essere gay. È probabile che una componente del genere ci sia anche stata, ma non propriamente a livello cosciente. Che fosse vero o che facessi finta io, mi sentivo innamorato di Marina. rispetto alle altre ragazze che avevo conosciuto era proprio un'altra cosa. Alla fine ci siamo messi insieme e in una situazione come quella è andata a finire che abbiamo fatto l'amore, e non una volta sola. Onestamente, io un coinvolgimento vero non lo avevo, ma la reazione fisica minima per fare quello che si doveva c'era. Io pensavo che l'amore fosse quello, e non mi sembrava un granché. Non capivo perché invece gli altri ne parlassero come di una cosa che si desidera con tutte le forze. Mi sembrava una cosa come un'altra, o forse poco di più. A lei dicevo quello che pensavo si dovesse dire, ma nemmeno per fingere, proprio perché pensavo che le cose andassero normalmente così. Questo strano rapporto alla fine è durato poco, perché lei è rimasta incinta praticamente subito, e da quel momento abbiamo sospeso i rapporti, cosa che a me non richiedeva nessun sacrificio, ma che giustificavo davanti a me stesso, anche davanti a me stesso, come una necessità legata al fatto che lei fosse incinta. Né lei né io avevamo la minima intenzione di abortire. Questa ipotesi non l'abbiamo mai presa in considerazione, ed è stata in fondo l'unica cosa giusta che ho fatto nella mia vita. Poi è nato Giacomo. Qualche mese dopo ci siamo sposati, e qui la cosa è stata paradossale. Marina ha voluto sposarsi in chiesa. Io non volevo, ma poi ho preferito non deluderla. Sono andato alla parrocchia per prendere accordi e lì ho ritrovato Don Filippo e gli ho detto che avevo avuto un figlio e che volevo sposarmi in chiesa. Lui mi ha guardato con una faccia soddisfatta, come per dire, hai visto? Te l'avevo detto io che sarebbe finita così. Il giorno del matrimonio mi sono confessato proprio con Don Filippo, al quale non ho detto nulla che riguardasse l'omosessualità, ma non per imbrogliare o per nascondere qualche cosa, ma proprio perché pensavo che il problema, allora questo pensavo, che fosse un problema, pensavo che fosse superato. Eravamo felici, nel senso profondo del termine. Naturalmente, sesso niente, da parte mia io non ne sentivo proprio l'esigenza, e da parte sua, probabilmente, le prime esperienze dovevano essere state così poco entusiasmanti che ha preferito non pensarci più. L'argomento era stato tacitamente archiviato consensualmente. Insomma, eravamo una coppia felice proprio perché tra noi non c'era sesso. E con una donna cattolica come mia moglie c'è sempre modo di dire che non si fa sesso perché il sesso si fa solo per mettere figli al mondo. In pratica io ancora non avevo capito niente. Io mi sentivo etero. Ero sposato, avevo un figlio e che altro avrei dovuto fare per sentirmi etero? Giacomo cresceva, io ne ero contento, ma qualche domanda cominciavo a farmela. Una sera, per motivi di lavoro, mi sono trovato in albergo a condividere la camera con un collega più giovane di me. Era un ragazzo di 24-25 anni e non era per niente complessato dalla mia presenza. Insomma, io ho capito all'improvviso che cosa fosse l'amore gay, una specie di illuminazione. Non c'era niente a che vedere con le cose che avevo fatto con mia moglie. Ho desiderato il mio collega in modo violento, ma mi sono imposto di non fare sciocchezze. Tra l'altro, il mio collega penso anche che sia etero. Dopo una sola notte in albergo col mio collega, senza che nessuna forma di sesso intercorresse tra noi, l'indomani ormai avevo capito qual era la mia vera vita. Ma non era una favola. Io ero sposato e con un figlio, e cambiare vita sarebbe stato difficilissimo. In primo luogo, non sapevo come affrontare l'argomento con mia moglie, e onestamente, anzi, sarebbe meglio dire disonestamente, avevo deciso di non dirle proprio nulla. E così ho fatto, e per qualche mese mi sentivo veramente disonesto nei suoi confronti. Per decidermi a parlare ci ho messo tanto. Mi sentivo in un imbarazzo tremendo e sarei sprofondato sotto la sedia. Poi ho preso il coraggio a due mani e gliel'ho detto. La risposta mi ha sconcertato. Mi ha detto che l'aveva capito e che si aspettava che prima o poi le facesse un discorso del genere. In pratica, a parlare con mia moglie di quello che è successo col mio collega non ho avuto nessun imbarazzo. Lei mi ha detto che aveva apprezzato il fatto che io fossi stato onesto e allora le ho detto che avevo rinviato deliberatamente la chiarificazione, ma non si è scomposta più di tanto. Poi mi ha detto, però c'è un problema enorme, Giacomo è minorenne e se divorziamo ci va di mezzo. Se lui fosse maggiorenne sarebbe un'altra cosa. Io gli ho risposto che non avevo alcuna voglia di scappare via e che ci si poteva pure pensare in un secondo tempo, perché l'importante è che quando uno ha capito una cosa del genere si comporti onestamente. Quando Giacomo ci ha portato a casa la prima ragazza e ce l'ha fatta conoscere perché per lui era una cosa seria, mia moglie mi ha detto «Io penso che sia arrivato il momento» e la sera abbiamo parlato con Giacomo. Ma la situazione era stranissima. Noi eravamo tranquillissimi, sia io che mia moglie. Giacomo è stato a sentire. Dopo non sapeva che cosa dire, ha spalancato le braccia e ha detto «Non so che dire, che si dice in queste situazioni? Per me non cambia niente. Certo, se divorziate potete essere più liberi di...» Poi ci ha ripensato e ha detto «No, papà potrebbe sentirsi più libero». Ma mia moglie ha aggiunto «No, Giacomo, pure io starei meglio se sapessi che lui sta bene». In sostanza, tra noi tre non ci sono stati veri problemi, ci amavamo. Io non desideravo sessualmente mia moglie, ma al di là di questo fatto le volevo bene. Ma la storia ha avuto anche dei risvolti molto sgradevoli, sia con i genitori di mia moglie che con i miei. Io volevo parlare chiaro e dire le cose come stavano, ma lei mi ha fatto ragionare e non abbiamo detto niente a nessuno. Quando Marina ha parlato alla madre del divorzio, ormai a cose molto avanzate, senza però dirle la questione dell'omosessualità, mio suocero è diventato furioso. È venuto a casa mia, mi ha fatto una sceneggiata a forza di urla, strillando che avevo un figlio e invece mi ero messo in testa di correre appresso a qualche puttana. Preciso che i miei mi considerano un donnaiolo. Per loro l'idea che io possa essere gay non esiste proprio. I miei con me hanno rotto i contatti completamente, ma li hanno mantenuti con mia moglie e con Giacomo. Una volta dopo il divorzio sono venuti a trovare Marina senza avvisarla prima e ci hanno trovati a casa tutti e tre che pranzavamo insieme. Non capivano più niente. Papà pensava che lo stessimo prendendo per i fondelli per chissà quale misteriosa ragione, ma Giacomo l'ha congelato, gli ha detto «Senti nonno, tu con gli affari di casa nostra non c'entri niente». Per mio padre è stata un'autentica pugnalata, è diventato tutto rosso e ho avuto paura che gli prendesse un infarto. Adesso siamo una coppia divorziata con un figlio maggiorenne e continuiamo a vivere nella stessa casa in attesa che arrivi per me il principe azzurro. Ma francamente, a parte il fatto che siamo ormai fuori tempo massimo, pure se mi capitasse l'occasione, non so se lascerei la mia vita da etero per una vita gay. Questa non è la mia vita sotto il profilo sessuale, ma sotto tanti altri profili mi ci trovo benissimo. Al punto in cui sono, non credo che varrebbe la pena di cambiare strada. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica.